GR Sport. Buongiorno da Dario Ricci. Coppa Italia attesa per Juventus-Genoa di domani e per il derby capitolino di domenica sera e le abituali polemiche arbitrali nel menù calcistico di giornata. A Coverciano è stato il designatore arbitrale Pierluigi Collina a rispondere alle critiche ricevute dai fischietti dopo l'ultima giornata di campionato. Si parla ancora di arbitri che scientificamente vogliono danneggiare una squadra. Beh, questo francamente non lo capisco e non lo accetto. La partita deve avere i fischi che si merita. I numeri nostri del campionato italiano non sono poi così lontani dai numeri di competizioni europee, dove normalmente l'atteggiamento dei giocatori in campo è sicuramente diverso. Nel frattempo il presidente della Lazio Lotito inquadra così la prossima sfida stracittadina con la Roma. È una partita che può riservare tantissime sorprese, per cui deve essere affrontata con lo spirito giusto, con molta umiltà ma con molta determinazione e in modo molto unito. Quindi queste sono le prerogative per poter fare una grande partita e dare un grande spettacolo per entrambe le tifoserie. Mi auguro nello spirito e nel rispetto delle regole. Oggi per gli ottavi di Coppa Italia in campo Napoli-Salernitana, Sampdoria-Empoli e Udinese-Regina. Il tecnico dei friulani Marino darà spazio alle seconde linee. È normale che chi ha giocato sempre non può giocare, ma non perché magari sono stanchi o non possono farlo, ma perché hanno bisogno di fare un ciclo di lavoro settimanale. A Catania intanto rientra il caso Zenga, l'allenatore degli Etnei che dopo le polemiche per il match pur vittorioso col Cagliari aveva addirittura ipotizzato le dimissioni. Io sono come uno squalo, vado sempre dritto, vado sempre avanti, non mi interessa. Ho fatto una polemica, l'ho fatta a fin di bene per la squadra, per difendere i miei giocatori. C'è un feeling straordinario tra me, questa società, questa città e questi tifosi. Per il basket impegno in Eurolega per la Lottomatica Roma che affronta in trasferta gli spagnoli del Tau Vittoria. Domani in campo Siena, Milano e Avellino. Non mi sento preparato per poter enfocare una finale come questa. E quella che sentite è la voce di Rafael Nadal, il numero uno del tennis mondiale, ha ufficializzato la sua rinuncia alla finale di Coppa Davis tra Spagna e Argentina a Mar de la Plata dal 21 novembre per l'infortunio al tendine di un ginocchio. Al suo posto convocato Marcel Granollers. Intanto nel Master di Shanghai il serbo Djokovic batte Davidenko e si qualifica per le semifinali. Chiudiamo con la vela, potrebbe tornare già nel 2010 la Coppa America. Dopo le battaglie giudiziarie di questi mesi, ieri a Ginevra riunione promossa dai detentori svizzeri di Alinghi. A Radio 24 il portavoce di Alinghi, Max Procopio. 10 degli 11 challenger più lo stesso Alinghi hanno firmato un impegno formale appunto a rivedere insieme, a sedersi allo stesso tavolo per rivedere insieme le regole e per definire la nuova classe. Hanno invitato BMW Oracle e il Golden Gate Yacht Club a ritirare la causa presso la Corte di Appello di New York. Questa era la richiesta per poter poi appunto prendere parte e partecipare a queste riunioni. Vi ricordo l'appuntamento con A Tempo di Sport alle 14. Un saluto da Dario Ricci.